Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Galbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. La chiesa era parata al lutto e sul portale un grosso scudo sormontato da una corona annunziava ai passanti i funerali d'un gentiluomo. La funzione era appena finita e gli intervenuti se ne andavano lentamente, sfilando davanti al feretro e al nipote del conte de Vaudrec, che stringeva loro la mano e rispondeva ai convenevoli. Usciti, Georges Duroy e sua moglie s'avviarono fianco a fianco. Tornati a casa, il domestico consegnò una lettera a Madeleine. Lei l'aprì, poi la porse al marito. La Manœuvre, notaio. Gentile signora, prego la signoria vostra di volermi onorare d'una visita nel mio studio dalle 14 alle 16 tutti i martedì, i mercoledì e i giovedì per comunicazioni che la riguardano. Gradisca, eccetera, eccetera. La Manœuvre. Deve essere proprio per il testamento, disse Georges. Strano che chiami te e non me, che legalmente sono il capofamiglia. Lei lì per lì non rispose. Poi, dopo un attimo di riflessione, gli domandò: «Vuoi che ci andiamo subito?» «Sì, sarà meglio». Si misero in cammino appena pranzato. Quando entrarono nello studio del notaio La Manœuvre, il primo giovane d'ufficio si alzò premurosissimo e li introdusse nella stanza del titolare. Il notaio era un ometto tondo, fatto a sfere. La testa pareva una palla inchiodata su un'altra palla e anche le gambe, corte e piccolette, parevano quasi due palle. Salutò, indicò due sedie e disse, rivolto a Madeleine: «Signora, l'ho chiamata per metterla a conoscenza del testamento del conte de Vaudrec in suo favore». Georges non seppe trattenersi dal mormorare: «Me l'immaginavo». Il notaio soggiunse: «Leggerò subito il testo, del resto brevissimo». Prese un foglio da una cartella che aveva davanti e lesse: «Io sottoscritto Paul-Émile Cyprien Gontran, conte de Vaudrec, nelle mie piene facoltà fisiche e mentali, espongo qui le mie ultime volontà. Poiché la morte può travolgerci da un momento all'altro, voglio prendere contro ogni suo eventuale assalto la precauzione di scrivere il mio testamento, che deporrò nelle mani del notaio La Manœuvre. Non avendo eredi diretti, lego tutto il mio patrimonio, composto di titoli pubblici e privati per un valore di 600.000 franchi e di beni immobili per un valore di 500.000 franchi circa, alla signora Claire Madeleine Duroy, senza alcun onere o condizione. La prego d'accettare questo dono d'un amico defunto in testimonianza del di lui devoto, profondo e rispettoso affetto». Il notaio aggiunse: «L'atto porta la data dell'agosto scorso e sostituisce un altro documento di egual tenore, composto due anni fa a favore della signora Claire Madeleine Forestier. Tale primo testamento è in mio possesso e potrà sempre provare, in caso di contestazione da parte della famiglia, che la volontà del signor conte de Vaudrec è rimasta immutata». Madeleine, pallidissima, si guardava la punta dei piedi. Georges, nervoso, s'attorcigliava fra le dita i baffi. Il notaio riprese dopo un momento di silenzio: «È chiaro, signore, che la sua consorte non potrà accettare il lascito senza il suo consenso». Duroy si alzò e disse asciutto: «La prego di lasciarmi il tempo di riflettere». Appena rientrati a casa, Duroy chiuse bruscamente la porta e, buttato il cappello sul letto, domandò: «Sei stata l'amante di Vaudrec?» Madeleine, che stava togliendosi il velo, si voltò di scatto. «Io? Oh, sì, tu! Non si lascia tutto il patrimonio a una donna senza che questa...» Madeleine era stata colta da un tremito e non riusciva più a togliere gli spilli che trattenevano il tessuto finissimo e trasparente. Dopo un attimo di riflessione balbettò, agitata: Ma via, sei pazzo, sei... Ma tu stesso poco fa non speravi che ti avesse lasciato qualcosa? George se ne stava dritto davanti a lei e ne seguiva ogni moto dell'animo, come il giudice pronto a sorprendere la più piccola incertezza dell'imputato. Poi disse, calcando bene le parole, «Certo, a me sì che poteva lasciar qualcosa. A me che son tuo marito, a me come suo amico, capisci? Ma non a te, a te come amica sua, a te che sei mia moglie. La distinzione è fondamentale». Essenziale dal punto di vista delle convenienze e di ciò che può pensare la gente. Madeleine lo guardava fisso anche lei, con uno sguardo strano e profondo, come per leggere qualcosa in trasparenza negli occhi di lui, come per carpirvi quella parte ignorata dell'animo che non si riesce mai a penetrare e che soltanto per brevi istanti si può appena intravedere, in quei momenti di inavvedutezza o d'abbandono o di disattenzione, che son come altrettante porte lasciate aperte sui misteri del nostro intimo. Poi scandì lentamente. Mi sembra però che si sarebbe trovato perlomeno altrettanto strano un suo lascito di tale consistenza a te. E perché mai? Domandò lui brusco. Lei fece. Perché? Esitò un attimo, poi proseguì. Perché sei mio marito? Perché tutto sommato tu lo conoscevi soltanto da poco? Perché io gli ero amica da un pezzo? Io? Perché il suo primo testamento, fatto quando era ancora vivo Forestier, era già a mio favore? George s'era messo a passeggiar su e giù a grandi passi. Tu non puoi accettare. Lei rispose con indifferenza. E va bene. Allora è inutile aspettare fino a sabato. Possiamo avvertire subito la Manœur. Bruscamente lui le soffiò sul viso a bassa voce. Su, confessa che sei stata l'amante di Vaudrec. Lei si strinse nelle spalle. Sei uno sciocco. Vaudrec era molto affezionato a me, molto, ma niente di più. Lui batté il piede in terra. Bugiarda! Non può essere! Lei spiegò con aria non curante e distaccata. Semplicissimo. Come dicevi tu stesso questo pomeriggio, non aveva altri amici che noi, o meglio, che me, avendomi conosciuta che ero ancora bambina. Mia madre era dama di compagnia di certi suoi parenti. Lui veniva di continuo qui e siccome non aveva eredi naturali, ha pensato a me. Che per me abbia sentito un po' d'amore è possibile. Ma qual è la donna che non è stata amata così? Parlava con tanta naturalezza e serenità che George rimase perplesso. Rispose, «Non importa, non possiamo accettare lo stesso l'eredità a questi patti. L'effetto sarebbe deplorevole. Tutti penserebbero male. Tutti spettegolerebbero e riderebbero di me». Lei mormorò con dolcezza. «E va bene, caro, rifiutiamo. Vorrà dire che sarà un milione di meno nelle nostre tasche. Tutto qui?» Duroy continuava a passeggiare e si mise a pensare ad alta voce, parlando per sua moglie, ma senza rivolgersi a lei. «Certo, un milione, ma pazienza!» Non ha capito, facendo quel suo testamento, a quale mancanza di tatto, a quale oblio delle convenienze s'esponesse. Non s'è accorto in che posizione falsa, ridicola m'avrebbe messo. Nella vita tutto è questione di sfumature. Bastava che me ne lasciasse la metà e tutto sarebbe stato a posto. Si sedette, accavallò le gambe e cominciò a torcersi la punta dei baffi come faceva sempre nei momenti di noia, d'agitazione e di perplessità. Madeleine prese una tendina che andava ogni tanto ricamando e disse mentre sceglieva la lana, «Io posso soltanto tacere. Tocca a te decidere». Lui rimase a lungo senza rispondere. Poi disse incerto, «La gente non capirà mai né come Vaudrec abbia potuto farti sua unica erede, né come io abbia potuto permetterlo. Accettare così quel patrimonio equivarrebbe ad ammettere... ad ammettere da parte tua un legame colpevole e da parte mia una condiscendenza infamante. Capisci come interpreterebbero una nostra eventuale accettazione? Bisognerebbe trovare una via d'uscita, un modo abile di coonestare la cosa. Bisognerebbe lasciar capire, per esempio, che lui ha diviso fra noi due i suoi beni, dando metà al marito e metà alla moglie. Lei osservò: «Non vedo come ciò sarebbe possibile, dato che il testamento è esplicito». Lui rispose: «Oh, è molto semplice. Potresti lasciarmi la metà come donazione tra vivi. Non abbiamo figli e perciò possiamo farlo. A questo modo si tapperebbe la bocca ai maligni». Lei gli lanciò un'altra occhiata penetrante. «Fa come vuoi. Sono pronta». Lui si fermò di fronte a Madeleine. «Beh, se vuoi, cara, tornerò solo dalla Manère per consultarlo e spiegargli la faccenda. Gli dirò il mio scrupolo e aggiungerò che noi siamo fermi sull'idea d'una spartizione in omaggio alle convenienze per evitare le chiacchiere. Dal momento che io accetto metà dell'eredità, è chiaro che nessuno avrà più il diritto di sorridere. È come dire a fronte alta: mia moglie accetta perché accetto io, suo marito, solo giudice di ciò che lei può fare senza compromettersi. Altrimenti sarebbe uno scandalo». Madeleine mormorò semplicemente: «Come vuoi tu?» Firmarono l'indomani una donazione tra vivi di 500.000 franchi che Madeleine du Roy faceva al marito. Poi, uscendo dallo studio notarile, dato che non pioveva, Georges le propose d'andare a piedi fino ai boulevard. Si mostrò gentile, premuroso, riguardoso, affettuoso. Rideva di tutto, felice, mentre lei se ne stava pensosa e piuttosto sulle sue. Da 2 o 3 mesi la conquista del Marocco era un fatto compiuto. La Francia padrona di Tangeri possedeva ormai tutta la costa africana del Mediterraneo fino alla reggenza di Tripoli e aveva garantito il debito pubblico del nuovo paese annesso. Correva voce che 2 ministri ci avessero guadagnato 20 milioni e quasi apertamente si faceva il nome di La Roche-Mathieu. Quanto a Walter, nessuno a Parigi ignorava che costui aveva preso 2 piccioni con una fava, incassando dai 20 ai 30 milioni sul prestito e dagli 8 ai 10 milioni su certe miniere di rame e di ferro, nonché su terreni immensi, comprati per una sciocchezza prima della conquista e rivenduti l'indomani dell'occupazione francese a delle compagnie colonizzatrici. Non era più l'ebreo Walter, proprietario d'una banca equivoca, direttore d'un giornale dubbio e deputato in fama di loschi raggiri. Era il signor Walter, il ricco israelita. Gli venne allora un'altra idea, una vera idea da conquistatore in vena di soggiogare Parigi, un'idea alla Bonaparte. L'intera cittadinanza si recava in quei giorni ad ammirare da Jacques Lenoble, un intenditore d'arte, un grande quadro del pittore ungherese Karl Markovitch, dove era raffigurato Gesù che cammina sulle acque. I critici entusiasti avevano dichiarato che tale opera era il più grande capolavoro del secolo. Walter lo acquistò per 500.000 franchi e se lo portò a casa, bloccando di colpo dall'oggi al domani l'afflusso dei curiosi e costringendo tutta Parigi a parlar di lui, sia per sfogar l'invidia, sia per biasimare o lodare il suo gesto. Du Roy era fuor di sé per il trionfo del principale. S'era creduto ricco coi 500.000 franchi estorti alla moglie e ora si sentiva povero, spaventosamente povero, paragonando la sua meschina fortuna con la pioggia di milioni caduta gli intorno senza che lui fosse riuscito a raccattare un soldo. La sua collera gonfia d'invidia cresceva di giorno in giorno. Ce l'aveva con tutti, coi Walter, che non era più andato a trovare, con sua moglie, che ingannata dalla Roche gli aveva sconsigliato di prendere le cedole marocchine. E soprattutto ce l'aveva col ministro, che l'aveva gabbato, che s'era servito di lui e che pranzava alla sua tavola 2 volte alla settimana. Georges lo tollerava fremendo, come un cane che vorrebbe mordere ma non osa. E spesso era duro e brutale con Madeleine, che si stringeva nelle spalle e lo trattava da ragazzino inesperto, stupita d'altra parte del suo costante malumore. «Io non ti capisco», gli andava ripetendo. «Non fai che lamentarti, eppure sei in una botte di ferro». Lui si voltava dall'altra parte e non rispondeva. Aveva lì per lì affermato recisamente che alla festa del principale non ci sarebbe andato e che non avrebbe più messo piede in casa di quello sporco giudeo. Da 2 mesi la signora Voltaire gli stava scrivendo ogni giorno per supplicarlo di farsi vivo, di darle un appuntamento dove voleva lui, per potergli consegnare, diceva, i 70.000 franchi che lei aveva guadagnato e che gli spettavano. Lui non rispondeva e buttava nel caminetto quelle lettere disperate. Non che avesse rinunciato alla propria parte di guadagno, ma voleva farla impazzire, trattarla con disprezzo, mettersela sotto i piedi. Era troppo ricca e ci teneva a mostrarsi orgoglioso. Lo stesso giorno dell'esposizione del quadro, quando Madeleine gli fece notare che aveva torto marcio a non voler andare, le rispose: «Ma non mi rompere le scatole, io me ne resto a casa». Poi, dopo cena, disse a un tratto: «Forse è meglio sorbirsi anche questa scocciatura. Su, preparati alla svelta». La signora Voltaire, circondata dalle amiche, si trovava nella seconda stanza e rispondeva ai saluti dei visitatori. Molti non la conoscevano affatto e passeggiavano come in un museo senza preoccuparsi dei padroni di casa. Quando scorse Duroy, divenne livida e fece l'atto d'andargli incontro. Ma poi si trattenne e lo aspettò. Lui la salutò cerimoniosamente, mentre Madeleine fu affettuosissima e la colmò di complimenti. Georges lasciò allora la moglie accanto alla padrona e si perse fra il pubblico per ascoltare le malignità che certamente s'andavano dicendo. Si sentì prendere per un braccio e una voce giovane, una voce gioiosa, gli mormorò in un orecchio: «Ah, finalmente, cattivone d'un bel ami! Perché non si fa più vedere?» Era Suzanne Voltaire, che lo guardava coi suoi occhioni di delicato smalto sotto la nuvola bionda dei riccioli. Fu felicissimo di rivederla e le strinse con sincera spontaneità la mano. Poi si scusò dicendo: «Non mi è più stato possibile, ho avuto tanto da fare, son 2 mesi che non metto il naso fuori di casa». Lei riprese seria: «Fa male, molto male, malissimo. Lei ci ha addolorati molto, perché le vogliamo un gran bene, la mamma ed io. Quanto a me, non so adattarmi alla sua assenza. Quando lei non c'è, m'annoio mortalmente». «Come vede, glielo dico con tutta franchezza perché non si senta più in diritto di sparire così. Mi dia il braccio, voglio mostrarle io stessa Gesù che cammina sulle acque. È laggiù in fondo, dietro la serra. Papà l'ha sbattuto apposta lì perché la gente sia obbligata a passare in rassegna tutta la casa. È incredibile quanto gli piaccia gonfiar le penne a papà col suo palazzo». Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.